sé yo, y en el lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Sono inviperito come un animale. In questo secondo avevo messo su Facebook il titolo della trasmissione di oggi pensando di fare servizio gradito a coloro che ci stanno ascoltando in rete. Il titolo era "Come convivere con altre persone senza scannarsi". Una signorina sarà immediatamente segata dal mio profilo Facebook, dice: "Dalla singolitudine alla convivenza, la tua trasmissione assomiglia sempre più alle istruzioni per l'uso della falcetta". Ecco, insulto più grosso, vergognoso e fangoso non poteva arrivarmi addosso, e quindi questa signorina sarà definitivamente segata, ma mi serve per presentarvi nel clima giusto, nello stato d'animo più consono l'argomento di oggi. Sì, è vero, voglio fare un passo avanti rispetto alla trasmissione fatta l'altro giorno sul vivere da soli. Visto la grande adesione che c'è stata nel parlare, sviscerare, a volte simulandolo, la condizione della singolarità, oggi facciamo un passo avanti. Oggi parliamo di coloro che invece vivono in un aggregato sociale. Vuoi chiamarlo matrimonio, vuoi chiamarlo convivenza, vuoi chiamarlo sto con il mio compagno, vuoi chiamarlo amici che vivono in una stessa casa, vuoi chiamarlo coppia gay, etero, trans, info, non so bene come esattamente volete chiamarlo. Comunque voi dovete ogni giorno passare parte cospicua della vostra vita con alcune persone. Sono vari agglomerati umani, c'è l'agglomerato umano di uscita, di base, che è quello vuoi familiare, vuoi casalingo, vuoi dedicato alle funzioni fisiologiche fondamentali, il luogo dove principalmente rincasi, il luogo dove ti alzi la mattina e ti dai una sciacquatina prima di uscire, il luogo dove la sera ti stravacchi, guardi il televisore, cerchi di avere rapporti umani con altre persone, il luogo dove attraverso lunghe, frastagliate, tormentate notti hai degli scambi intimi, promiscui, fisici e profondi con altre persone, e questa è una parte. Poi esiste il luogo di uscita, le persone che sporadicamente noi sfioriamo durante la giornata, l'edicolante, il barista, gli amici prima di entrare nel luogo di lavoro. Poi il terrificante ambiente del lavoro, dove comunque dobbiamo mantenere dei rapporti. Non possiamo tagliare la gola a tutti quelli che incrociamo ogni giorno. Sarebbe bello, sarebbe gratificante probabilmente, sarebbe catartico, ma è brutto farlo, non si fa. Quindi anche qui noi dobbiamo mettere a punto delle regole di convivenza. E poi esiste qualche sfilacciato elemento sotto insieme umano che noi frequentiamo nei momenti a cuscinetto fra il luogo di lavoro e il luogo del rientro, e ricomincia la fase catalettica, che possiamo definire vagamente i sottoinsiemi che prendiamo in prestito ad altre persone. Sono gli amici con cui ci facciamo due chiacchiere, sono gli amici che spilucchiamo al menage altrui, sono le persone che vagamente incontriamo per fare progetti, per pensare, per immaginare, per fare shopping, per sfogarsi, per piangere, per avere una possibilità di ammortizzatore sociale individuale prima di rientrare nell'insieme fondamentale che è quello del riposo. Beh, 800240024, spero di essere stato sufficientemente chiaro sull'argomento di oggi. È una cosa meravigliosa, come l'uomo, siamo uguali, abbiamo i nostri momenti sì, i nostri momenti no, ma noi non sappiamo vivere senza di loro, e loro credo che non potrebbero vivere senza di noi. Io voglio dire che comunque la donna di oggi proprio non c'è la possibilità di convivere, non so se tu ci hai mai convissuto con una donna, oggi è improponibile. Uno può convivere con gli ornitorinchi, può convivere con le tartarughe, può convivere con le anguille, può convivere con gli animali da cortile, c'è una scelta vastissima. Qualunque sia l'oggetto della vostra convivenza, qualunque sia l'essere organico, animato, ma anche inorganico, se la vostra convivenza, l'oggetto del vostro tempo, del sottoinsieme casalingo, del sottoinsieme professionale, è una bambola gonfiabile, è un pupazzo robot, ditelo. 800240024. Hai finito con questo bagno, dovrei usarlo anch'io se non ti dispiace. Se poi la prossima volta potessi evitare di farti la doccia col napalm, te ne sarei grata, visto che sono io che pulisco. Grazie, grazie. Lo sai cosa sono questi? No. Questi qui sono i miei due nuovi asciugamani per farmi il bidet, perché le palle palle, io non l'ho messa in soffitta, ma tu me le fatte diventare grosse così. Sempre vestito uguale, con queste camicette che mi sembrano tovagliette, e poi quelle scarpe, ma che te l'hanno tatuata, te l'hanno? Pensa alle tue, le scarpe, pensa, oppure pensa che mi hai messo dentro casa sta bella tazza del cesso arancione, eh? Quella me l'ha regalata mamma, quella me l'ha regalata mamma! Mamma, mamma, mamma, sì. E chi se ne frega? Non c'è sta più. Te lo ricordi questo? Quel giorno quanto eri felice perché la tua squadra del cuore aveva vinto il prosciutto d'argento. Il vitello d'oro de Sezze, se non ti dispiace. Oh, scusa, il vitello d'oro. E certo, me l'avevi dedicato, me l'avevi. Guardalo. No! Guardalo. Questa chiaramente è una lettura tratta da una fiction straceleberrima, I Cesaroni, Claudio Amendola che litiga con Elena Sofia Ricci, che già riporta una reliquia del passato. Uno degli ammortizzatori sociali individuali, almeno nell'ambito familiare, era litigare. A casa mia si litigava molto, era bello quando vedevamo papà e mamma che litigavano. Era bello perché sapevamo che poi avrebbero fatto la pace. Era bello, perlomeno avevamo l'impressione di qualcosa di vitale che scorresse tra loro. Era bello perché tutti noi partecipavamo a quel lancio di piatti, a quelle urla, a quei musi, a quegli insulti terrificanti. La cosa meravigliosa era che poi di solito queste cose avvenivano durante l'ora di colazione o l'ora di cena. Poi dopo 5 minuti tutti riprendevano normalmente la loro attività. Oggi si va in palestra, oggi a quell'ora si va in palestra, ci si sfoga con delle macchine d'acciaio, ci sfoga con dei tiranti, ci sfoga con personaggi che ci aiutano a fare queste attività. Insomma, esiste una possibilità alternativa che ha eliminato il litigio, che forse era una delle chiavi della convivenza. Una delle chiavi per convivere con altre persone è probabilmente insultarsi reciprocamente alcune volte. Avete altri suggerimenti? 800 24 00 24. Sentiamo Giuseppe. Giuseppe, buongiorno. Pronto, sono in linea, Nicoletti? Certo, benvenuto, è il buongiorno, primo. Buongiorno, fantastico. Io avevo telefonato, cercavo di introdurmi su il discorso dei single dell'altro adesso giorno. Tralasci l'introduzione un attimo perfetto. E parli. Allora, io sono in una situazione un po' forse particolare, nel senso che sono sposato e sto seguendo una cosa che mi appassiona molto, che è il restauro di una piccola cascina alle porte di Milano, che mi tiene allontano un paio di giorni alla settimana da casa, e quindi ho una duplice visione di riesco a ottenere degli spazi di autonomia e nello stesso momento ho le problematiche. Quindi si dedica metà della vita al restauro e metà della vita alla distruzione. Alla famiglia, in buona sostanza è una vita un po' più normale. L'argomento che io volevo accennare era sostanzialmente legato alla comunicazione, mancanza di comunicazione. Io ritengo che possiamo fare grandi discorsi, entrare in argomentazioni più ampie, ma il vero problema di questo momento storico, in modo particolare, è la mancanza di comunicazione. Io trovo che sia una favolosa chance il non riuscire a comunicare, perché guardi, se nell'ambito del problema che stiamo dicendo non riuscissimo veramente a comunicare ciò che abbiamo dentro, sarebbe distruttivo. Io penso che invece una delle tecniche di sopravvivenza nei sottoinsiemi sociali, individuali, sia quello di riuscire a frenare la comunicazione, artefare la comunicazione, stoppare la comunicazione, edulcorare la comunicazione. Non è d'accordo? Non sono d'accordo, perché sostanzialmente non la seguirò per questo, esprima tranquillamente il suo parere. Io sono tendenzialmente passionale nelle mie espressioni, nel mio modo di essere, ho difficoltà anche e infatti va a fare il muratore va a fare il muratore per non cazzolare sua moglie, praticamente questo mi ha detto. No, io vado a fare il muratore, sostanzialmente vado a restaurare, perché intervengo su diversi fronti dell'opera di restauro. Lo vado a fare perché comunque trovo una ragione per andare avanti, trovo un qualche cosa che mi appaga, io sono soddisfatto alla fine della giornata, e non lo ero quando, consulente finanziario nella grande City di Milano, me ne stavo lì a parlare della ravanzata dei massimi sistemi su quelle che sono le immagini e gli stereotipi, voglio dire, di un mondo così affascinante che poi alla fine, dopo 25 anni, uno vede in maniera diversa. Comunque, allora, se devo sintetizzare la sua soluzione, trovatevi un'alternativa di attività pratica, manuale, fisica, che vedrete che vi permetterà di ritornare a casa un pochino più alleggeriti. Ecco, questo potrebbe essere l'idea. Luigi. Buongiorno. Allora, no, io riallacciandomi anche il discorso dell'ascoltatore che mi ha preceduto, posso solamente un po' confermare sicuramente la necessità alle volte di evadere, però tuttavia quando si è inseriti in contesti anche se vogliamo familiare, in cui le dinamiche sono esclusivamente quelle del carnefice della vittima, che è l'unica dinamica che tiene insieme le persone, però lo sai, in un rapporto affettivo non esiste un'altra dinamica, sì, però due carnefici non potremmo mai stare assieme, due vittime e non cercare un terzo carnefice, si apre un discorso complicatissimo. Questo è vero, tuttavia però quando sono poi così esasperate, quando ci si sente troppe vittime o troppo carnefici, non il fabbricato poi non tiene più, perché alla fine bisognerebbe avere anche non solo degli obiettivi comuni o qualcosa, un andiamo al senso, se no sembriamo la Falcetti veramente, faccia esempi, perché che vuol dire vittima? Parli di lei, io personalmente lei cosa subisce in famiglia? Ma io personalmente ho 32 anni e lei è la vittima? Non lo so, me lo dica lei, io ho 32 anni, ho un buon reddito, una casa e purtroppo sono costretto ancora a stare con i miei genitori perché mia mamma non ha la benché minima idea di lasciarmi da solo. Quindi è vittima congenita, può darsi che generazionale. Per mia mamma sono carnefice perché praticamente secondo lei la vorrei buttare nell'immondizia, in realtà vorrei veramente avere mia indipendenza. Voglio istigarla al parricidio. Esattamente. Sono esattamente l'opposto di quelli che sono i bamboncioni di Pau da Scoppe di qualche anno fa. Sì, però mi perdoni, scusi, sua madre dice sei un carnefice, mi vuoi buttare nella spazzatura, ma finché lei non ce la butta veramente non diventerà mai carnefice, potrebbe essere un potenziale carnefice tenuto a freno con lo psicofarmaco del ricatto dell'amore materno, ma non è un carnefice lei, come fa a sentirsi carnefice? No, se è per mia mamma che lo sono, io mi sento piuttosto vittima. Ma razionalmente, scusi, lei comincia a essere carnefice il momento che prende la mamma e la butta nel cassonetto, cosa che secondo me le salverebbe la vita, però questo non mi permetto di dirlo. Però, d'accordo con lei. E allora lo faccia, non so che dirle, magari nella raccolta differenziata faccia mettere un cassonetto mamme castratrici e ci metta la sua, non so che dirle, probabilmente questa è una soluzione. Guardi, lei sa esattamente qual è la sua soluzione, io la conforto, le do l'appoggio dell'amico e del fratello che parla alla radio, però lei sa esattamente cosa la salverebbe, lo faccia in tempo perché gli anni passano. Francesco. Buongiorno. Prego. Salve. Senta, io volevo... Questa puntata cade proprio... A fagiolo, sì. Io sono uno studente universitario, 23 anni. Anche lei vuol fare raccolta differenziata delle mamme? Ma no, io vorrei parlare della mia convivenza con il mio coinquilino. In questo momento... Ma siete una coppia gay o siete soltanto... No, siamo due studenti normalissimi, etero. Io penso anche lui, sì, comunque. Vabbè, se sono fatti suoi. Io volevo parlare proprio dell'incompatibilità, proprio quando due persone sono incompatibili al 100%. Ma voi siete costretti a vivere assieme perché vi dividete l'affitto di casa, immagino. Ci dividiamo l'affitto di casa, sì, io vorrei fare anche un paio di... Ma quando uno dei due riesce a razzolare e portare qualcosa a casa, l'altro che fa? Non saprei. Quindi non succede mai, una vita tristissima. È tristissimo, guardi, veramente è una cosa veramente triste. Poi come fa a studiare in questo clima depresso? Il bello, io ricordo, ho avuto una vita universitaria procrastinata per 7-8 anni fuori corso, perché vivevo in una città meravigliosa in cui fare lo studente era la più grande attività del mondo, ma in queste condizioni lei non riuscirà mai a laurearsi. Guardi, io lo studio è l'unica cosa che mi salva probabilmente, perché io ho una biblioteca qui vicino, cioè una facoltà qui vicino, quindi una delle scuse per uscire di casa è quella di andare a studiare in biblioteca, quindi questa è la mia salvezza più che altro. Ma io vorrei parlare del fatto che come noi in casa ci evitiamo sostanzialmente. Ma perché c'è un problema, non so, emana cattivo odore? No, è proprio una questione di che guarda, se non ti vedo camminare in casa è meglio. Ma scusi una cosa, io penso che se lei si guarda intorno un altro collega per dividere l'affitto lo trova, cambi casa, perché non può. Sono qui da un anno, quindi il fatto di andarmene, di dover traslocare di nuovo non è l'idea migliore. E allora soffra in silenzio e non si lamenti. Buona giornata. Come affrontare la convivenza con un uomo? Care amiche, sappiate che quando andrete davvero a vivere insieme al vostro partner, trovare alzata la tavoletta del water sarà l'ultimo dei vostri problemi. Ecco alcuni accorgimenti per sopportarlo meglio. Predisponete un complesso impianto di ciabatte elettriche e prese multiple. Lui avrà sicuramente una quantità abnorme di cavi e spinotti da collegare. Comprategli un cestone dove riporre tutti i suoi giocattoli per non trovarli sotto al letto. Se si lamenta un po' di male alla pancia, chiamate il medico prima che arrivi sua madre. Applicate un canestro sopra la cesta della biancheria, diminuirà la frequenza con cui troverete indumenti sporchi in giro per casa. La rete, che è un grande archivio di saggezza, oltre che di sconcezza, oltre che di futilità, oltre che di profondità, è riuscita a fornire a Fabrizio Intonti alcuni consigli, alcune norme di convivenza, vedete, norme essenzialmente pratiche. A volte superare i piccoli problemi di tipo pratico, avere la presa giusta nel momento giusto, avere l'oggetto che l'altro desidera, si evita quelle frizioni quotidiane che assommate poi fanno degenerare la tragedia nell'omicidio in famiglia. Se lui si accorge di un tubo rotto in bagno, improvvisate uno striptease prima che riesca a raggiungere la cassetta degli attrezzi. Con la chiave inglese farebbe solo allagare la casa. Spiegategli chiaramente che le tovagliette all'americana non sono tappetini per il mouse, che le tazzine non sono posaceneri, che l'acetone non è una sostanza psicoattiva. Siccome quando non ci siete mangia solo carne alla griglia, lasciategli in bella vista il numero dei pompieri. Quando lo vedete preso davanti alla TV o al computer con lo sguardo alienato, le orecchie insensibili a qualsiasi parola voi possiate rivolgergli, pensate all'unico vero effettivo vantaggio di vivere con un uomo: avere sempre a portata di mano qualcuno che vi apra vasetti e barattoli. Vabbè, è terrificante, non so chi abbia potuto concepire delle norme così obsolete, così lontane dalla realtà. Sembra che ancora gli uomini sono quelli di Arcibaldo e Petronilla, dei fumetti dei primi anni del Novecento. Non è esattamente così. Oggi l'abbiamo visto nella trasmissione dei single, gli uomini hanno una loro autonomia funzionale anche in certe operazioni. Sono bravissimo a struar sifoni, a cambiare tubi, a cambiare rubinetti, guarnizioni, ma chiunque sa fare queste banali cose. Non è che gli uomini siano degli eterni bamboccioni in casa, o se realmente è così ditecelo. 800240024. Silvana, buongiorno. Buongiorno. Ecco, mi conforta sempre quando sento una voce femminile, significa che la parte interessante, l'universo mi ascolta e dà un contributo, perché il punto di vista degli uomini lo conosco sin troppo bene. Speriamo, sì. No, volevo portare la mia testimonianza, perché io... Sì, però posso dire in partenza, non mi dica io ho una vita felice, vivo da 70 anni, siamo pensionati, siamo sempre voluti bene, sennò la seguo subito. No, non mi segui perché dopo 20 anni di matrimonio, dopo un divorzio, ho conosciuto questo mio compagno 18 anni fa, e io lavoravo intensamente pure lui e abbiamo deciso di continuare a vivere ognuno nella propria casa, invece di convivere nella stessa casa. E ovvio, all'inizio, come tutte le coppie, abbiamo avuto il tempo di conoscerci e anche di litigare, anche di non vederci per dei periodi. Da un po' di anni ormai ci siamo assestati e viviamo molto bene così, perché ci vediamo 3-4 volte alla settimana, facciamo le ferie insieme, abbiamo gli amici insieme. Ovviamente le piccole discussioni eccetera ci sono sempre, però a quel punto uno dice ciao, arrivederci, ci risentiamo. Dopo 3-4 giorni, quando ci siamo placati, ci risentiamo e ci rivediamo con molto piacere. Comunque questa è una scelta di grande saggezza, implica una disponibilità logistica che non sempre tutti hanno, ma secondo me il sacrificio di pagarsi un secondo affitto vale una storia d'amore che dura da 20 anni, che è una cosa molto rara. Esattamente. Quindi come funziona? Ognuno torna a casa sua fingendo nulla, poi ancora lei sta con il batticuore sperando che arrivi il messaggio alla persona, ci vediamo. Esattamente, più che altro il messaggio sono sempre io che lo mando, comunque... Ah, ecco, già questo comincia su un punto. Cioè lui non chiama mai? No, sì. Ma lei ha fatto il tentativo di non chiamare? Se non sarebbe durato tanti anni. Ma se lei si astiene per una settimana e 10 giorni, che succede? Se io mi astengo, in genere dopo tanto tempo vuol dire che c'è stata una rabbiatura un po' forte, e in genere sono io che faccio il primo passo. Quindi tiene i piedi... Diciamo la baracca la tiene legata a lei, no, se fosse per lui sarebbe già finita. No, perché l'ho fatto no. Una domanda precisa, Silvana. Se lei si astenesse per una settimana, 10 giorni, da mandare qualsiasi tipo di messaggio, la sera vi salutate, ognuno a casa sua, ciao, cosa succederebbe? No, poi mi richiamerebbe, sicuramente. Ah sì? È sicura? Sì. Ma ci ha mai provato? In 18 anni sono successe tante cose del genere. Diciamo che adesso ormai... siamo così assestati che non è che voglio sembrare che tutto è perfetto, però è una convivenza, un modo di interagire fra due persone che è molto civile e molto bella, direi. Allora chiudiamo con questa, con la sintesi di questa massima di vita: convivere con le persone significa non avere la condanna pneumatica di doverci stare sempre assieme in tutti i momenti, in tutte le ore stabilite comunque da contratto, da necessità di convivenza, necessità comunque di scambiarsi una stessa unità abitativa. Melog 2.0. Consigli per convivere felicemente in coppia. Affrontare subito i piccoli screzi al loro insorgere. Potreste pensare che non valga la pena di discutere certe piccole abitudini che vi danno fastidio, ma vi conviene invece farlo subito in modo che l'altra persona abbia la possibilità di modificare il suo comportamento prima che tutto sia più difficile da gestire e voi troppo rancorosi. Se il verso del rotolo di carta igienica, i piatti sporchi nel lavandino o i rifiuti ammassati vi danno noia, ditelo senza polemiche. Non aspettatevi che l'altro cambi abitudini senza dirglielo. Sappiate che ci vogliono almeno 21 giorni di tempo per cambiare abitudini e impararne di nuove. Abbiate pazienza in questo periodo iniziale di riscaldamento. Lasciatevi reciprocamente il beneficio del dubbio, immaginando che l'altro stia effettivamente cambiando qualcosa. Chissà perché tutti gli esperti di convivenza poi si fermano su questi particolari trascurabili, il verso del rotolo di carta igienica. Chissà perché si tende a minimizzare, a trasformare in piccole occasioni futili quelli che sono i profondi, laceranti, divaricanti motivi di odio interpersonale. 800240024, stiamo cercando, se possibile, di mettere assieme alcune piccole regole di convivenza. Come fare a non tagliare la gola ai nostri simili, siano essi familiari, siano colleghi d'ufficio, siano amici per strada, siano semplici conoscenti? 800240024. Ovviamente non tutte le abitudini possono facilmente essere interrotte. Sopportate che ancora per qualche volta lui o lei non riutilizzi i sacchetti di plastica e lasci sporco di dentifricio il lavandino anche se gliel'avete già detto. Rispettate reciprocamente i vostri spazi. Solo perché state convivendo non significa che dovete trascorrere insieme ogni secondo, come all'inizio si tende a fare. Ognuno di voi ha la propria vita per godersi i propri amici e i propri familiari con cui spendere un po' di tempo. Fate le cose anche senza il vostro partner. Trascorrete del tempo con gli amici separatamente e congiuntamente. Non è un dramma se lei guarda la televisione in una stanza mentre lui gioca ai videogiochi in un'altra. Purché quando vi incontrate in corridoio non dubbiate ripresentarvi. Io mica sono tanto d'accordo con questi esperti di convivenza. Sì, è pur vero che le piccole incomprensioni a volte scavano delle voragini fra le persone, ma siamo i primi a dimenticarci le prime incomprensioni quando poi il resto funziona, quando la persona per noi non è un ostacolo emotivo. Io penso che l'essere ostacoli emotivi è il vero grande limite delle persone che ci stanno attorno. Noi potremmo convivere felicemente con chiunque, anche se emana un odore non proprio gradevolissimo, anche se non ha un aspetto fisico proprio estremo, anche se non è un mostro di simpatia, purché non sia ostacolo emotivo. Quando una persona è stimolatore emotivo, sia amico, compagno, fidanzata, convivente, matrigna, matriosca, chiamatela come volete, ecco, allora è una persona con cui stiamo insieme. Quando una persona ci stimola in qualche maniera l'emotività, ancora una persona con cui vogliamo passare del tempo assieme. Anche il nostro compagno di scrivania, se ci fa riflettere, ci fa pensare, ci dà degli stimoli nella nostra giornata, probabilmente possiamo evitare, rimettere nel fodero la nostra sciabola, di tagliargli la testa almeno per quella volta. Guglielmo, buongiorno. Buongiorno. Io volevo darvi la mia testimonianza. Ho 26 anni, faccio un lavoro che mi porta a spostarmi spesso, quindi la casa per me è abbastanza importante. Ho convissuto con molte persone, fidanzate, amici. Io, i miei migliori amici sono quelli con cui alla fine ho convissuto, le nostre strade si sono separate ma siamo ancora molto legati. Quello che mi dà fastidio è sentire tutte queste testimonianze, questi esperti del settore che fanno vivere la convivenza, rendono la convivenza come un supplizio, quasi una fatica. Medico penso che la imponga a nessuno. Infatti, no, beh, ad un certo punto della vita, diciamo, o in alcune fasi, uno studente qualcuno che ha bisogno comunque di una casa e non può sostenere totalmente. È un motivo economico, diciamo, sì. Anche, oppure un motivo anche di amore, un motivo di solitudine. Ci sono un sacco di cose e anche la convivenza è quella nel lavoro, perché se uno vive, fa 12 ore di lavoro in una fabbrica, 12, ma sono sempre meno. Ma anche nel terziario, guardi, io penso che una persona sia più con i colleghi d'ufficio che con il marito o con la moglie. Esattamente. Il mio lavoro mi porta a entrare negli uffici e sono un consulente, quindi le vedo queste situazioni di conflitto, gente che si vorrebbe dare il coltello da una scrivania all'altra. Ma lei cosa fa? Il suo mestiere è aiutare l'azienda a segare i dipendenti? No, io sono un consulente per business, ma io cerco di fare in modo che le aziende ne abbiano di più di dipendenti. Faccio progettazione, una cosa abbastanza variegata. In ogni caso, la mia ricetta è molto semplice ed è un mix di concentrazione nel gestire proprio la vita nella casa, di non entrare a casa, mollare gli stivali, appoggiare i piedi sul tavolino e guardare la TV. La convivenza, la casa, bisogna viverla in altro modo. E poi soprattutto... Quindi questa è ingegneria gestionale applicata al focolare domestico? Sì, esatto. Io sono una persona che cerca di... Sono un ottimista, sempre. E le persone con cui ho convissuto non sono mai state facili, perché in un momento in cui hai un nervosismo o qualcosa, il primo luogo dove ti scarichi è quello anche più privato, è quello dove nessun altro ti guarda, eccetto magari una o due persone, quindi è lì dove vai a scatenare, lì è, diciamo, alla macchina, sono i due luoghi. E invece la convivenza è una cosa bellissima, è poter veramente avere del tempo con cui parlare con una persona, conoscerla, condividere qualcosa. Però diciamo la verità, Guglielmo, diciamo la verità, noi tutti vorremmo avere una sorta di telecomando in mano per accendere e spegnere le persone con cui conviviamo, di qualunque tipo, di qualunque genere, in qualunque sottoinsieme individuale, a nostro piacere, a nostro comodo. Il problema è che in realtà hanno la loro autonomia di vitalità, parlano quando dovrebbero stare zitte, esistono quando non dovrebbero esistere, c'hanno sonno quando invece dovrebbero stare sveglie, sospirano quando dovrebbero soltanto respirare o viceversa. Questo è il vero grande problema. Sentiamo, non è d'accordo? È il bello della vita. Sì, è bello, dire, ma anche il fastidioso, no, il tedioso della vita. Sì, sì. Ma è fastidioso, ma se vogliamo vivere in una totale solitudine, allora sì, le persone sono un telecomando, io mi posso allontanare quando voglio. No, noi vorremmo vivere con delle persone a nostro piacimento. Questo è il punto di desiderio massimo. È chiaro che non si può, però non diciamo che non è così. Io vorrei vivere con delle persone armato in una mano una motosega e in una mano un telecomando. Accendere quelle che voglio il momento che le voglio e motosegare quelle che mi danno fastidio. Ma questo è un sogno, però io non ho pudore del mio profondo onirico. Lo racconto, siate sinceri anche voi e spero che lo sia Sabrina. Sabrina, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, intanto complimenti per la trasmissione. Sì. Allora, io volevo riferirmi ai discorsi in merito alle madri che facevate prima. Parli di se stessa, non parli degli altri. Parli di sé. Allora, no, io porto la mia esperienza personale. Sì. Io esco da una famiglia costituita da nonna, mia madre, che è la sua figlia, e lo zio. Veramente ho potuto scrivere anche un libro intitolato Ossigeno. Porto la mia esperienza in quanto ho potuto verificare sulla mia pelle che la madre è veramente, può combinare dei guai veri nella vita. Certo. Nel senso che ha rovinato la vita a mia madre e mio zio, che attualmente ha 55 e 58 anni l'altro, sono ancora in casa. Ma a lei sta a cuore la sorte di suo zio? Pensi a sé adesso, in questo momento parliamo di lei. Sì, io praticamente sono riuscita ad uscire da questa famiglia, costruirmi la mia, ho due bellissimi figli e avendo questa esperienza, aver visto questa realtà, starò molto attenta nella mia vita a quanto non bisogna invadere la figlia dei propri figli. Bisogna fissare un confine. Cioè io ho queste due esperienze. Quindi qual è l'oggetto materiale, il marchingegno che lei vorrebbe avere in mano per risolvere questo problema? Elenchi una serie di utensili da famiglia, da lavoro, quale sarebbe bisogna rispettare. No, ma parli, ma perché andate sempre, volete sempre fare i filosofi o gli psicanalisti? No. Nessuno di noi lo è. Se lei vorrebbe, cosa vuole? Un'accetta, una motosega, una pompetta dell'olio, una bombola ossigeno, cosa le servirebbe per risolvere? Il patetico cassonetto che parlava prima. Il cassonetto, perfetto, io voglio oggetti, voglio rappresentazioni concrete, se no sembriamo qualcosa a metà fra Crepè e Vera Slepoi. Alberto, no. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dunque, io qual è l'oggetto? Adesso fa una domanda precisa, qual è l'oggetto per risolvere il suo problema? L'oggetto è la pazienza. La pazienza non è un oggetto, è uno stato d'animo. Oggetto. È uno stato d'animo, l'oggetto non credo possa esistere in questo senso per risolvere il problema. Gli oggetti risolvono tutti i nostri problemi, noi grazie a tecnologia risolviamo i nostri problemi. Ecco, l'oggetto allora in questo caso è veramente, potrebbe essere un telecomando, ma che non può esistere, chiaramente. Beh, però allucinarlo ci fa bene. Qual è il problema allora? Con il telecomando quale problema potrebbe risolvere? Il problema di tutti i disagi che si incontrano in una convivenza, perché in tutte le convivenze ci sono dei disagi che noi scarichiamo, le nostre sensazioni negative della giornata, probabilmente col convivente o con la convivente. È anche la sua funzione, fungere da cuscinetto assorbente dei nostri malumori, se no non si sta assieme a una persona, se non si presta al fianco per stare a ascoltare l'altro. Ovviamente. La volevo portarvi la mia esperienza, io sono grandino, ho fatto una vita da single per molti anni, facendo un'attività professionale che non mi impediva di gestire le cose di casa, mi sono sempre servito di altro. Questo per ritornare a quello che diceva all'inizio della trasmissione, in effetti questo maschietto che può imparare a far tutto esiste sicuramente. Io ho imparato a fare le cose più difficili da fare in casa, svolgere in casa, cosa che non sapevo fare. Quindi per risolvere i problemi elenchiamo altri oggetti: la ramazza, lo spazzolone, lo sturalavandini. Con questi lei ha risolto i suoi problemi. Assolutamente sì, il maschietto è in grado di farlo, io perfetto. Sono stato in grado di farlo, assolutamente si può fare e già si risolvono moltissimi problemi in competizione del famoso maschietto che non sa fare, che non è vero assolutamente. Perfetto, molto chiaro, il prossimo oggetto sarà un viva voce che ci permetta di ascoltare meglio la sua voce. Melog 2.0. Io parlo ma tu non mi ascolti. Anche a te, Pucci, sogni d'oro. Caro, avrei proprio voglia di passare una bella serata, che ne dici? D'accordo, cara, però l'importante è che quando rientri non fare troppo rumore. Anna. Dimmi, caro. C'è un pensiero che mi assale giorno per giorno. Quale? Il nostro ultimo figlio. Non assomiglia affatto agli altri 9. Ora vorrei sapere, ma ha un padre diverso dagli altri, questo ultimo figlio? Ebbene sì. Mio Dio, e chi? Tu, caro. Oh no, e gli altri 9? Devo dire, questo è un tentativo rozzissimo di fare un autofiction prodotta casalinga e poi metterla su YouTube, però mi fa molto ridere quest'ultima battuta. Beh, comunque questo è uno degli esempi che vengono dal basso di soluzioni rapide al tedio familiare. Su 9 figli ne è stato concepito uno con il legittimo marito, quindi evidentemente per gli altri 9 ci sono state delle liete allietanti fughe domestiche che hanno permesso comunque di compensare per un versante. Per l'altro versante, come abbiamo già visto, esistono vittime carnefici, la vittima predestinata si appaghi del suo ruolo di vittima e subisca. Luigi, buongiorno. Buongiorno, volevo dare il mio contributo, visto che ho tanta esperienza a riguardo. Quanti anni ha Luigi, scusi? Io ne ho 62. E ce la fa? Ho sempre fatto la vita coniugale in modo spassionato, ecco. Ho preso. Vuol dire appassionato forse? Appassionato o spassionato vuol dire? Appassionato. Ah, appassionato. Mia moglie lo ha sempre amato, tanto, tanto, tanto. E lei ha amato lei? Sì, spera. E sono stato ricambiato. Diciamo che 5 anni fa lei incominciava a trascurarmi, poi non è che mi trascurava, sembrava che non avesse più quell'interesse per la vita come prima, ecco. Ho conosciuto un'altra. Adesso sono 5 anni che vivo con questa signora. Beh, se dovessi scegliere fra le due chi dovrei lasciare, non lascerei nessuno. Ah, la moglie l'ha mantenuta, la tiene comunque. Prego? Sua moglie se la tiene comunque? Sì, sì, e non la cambierei per tutto l'oro del mondo. Ma sua moglie sa che lei è anche la seconda mantenuta? Non lo sa. Non se ne è mai accorta? Credo che non lo sa. Allora, quali sono gli oggetti? Gli oggetti... La donna intuisce certe cose. Intuisce ma tace. Ma tace. Forse anche lei c'ha un altro, non può essere. Sì, ho conosciuto un'altra. No, ma sua moglie abbia un altro uomo, può essere. E per questo tace. Non credo che qualche Adam... non potrebbe avere. A lei ce n'ha in tale abbondanza che ne elargisce generosamente alla moglie e all'amante. E beh, bocca al lupo. Il suo oggetto, quindi, per mantenere vivo il rapporto, probabilmente è un tool farmacologico di cui farà un buon uso. Grazie, Luigi. Maurizio. Sì, buongiorno. Sentiamo qualcosa di più realistico. Sì, io dopo essermi separato da mia moglie, mi tenevo il figlio il fine settimana. Da notare che facevo un lavoro con il pubblico, quindi lavoro in discoteca. Quindi il mio figlio era diciamo in mezzo alle persone, poteva conoscere persone, donne, non donne, ed essendo single lui partecipava con me più come amico e tutti i fine settimana li passavamo assieme. Ma io guardi, poi... le dico che nei momenti di riconquista della casa vivere da soli con i figli è meraviglioso, momenti in cui le mogli se ne vanno perché in vacanza, perché tu capisci che quando tuo figlio ti è amico e complice, quando poi decidi di fare grande passo, che ne parli per 10 anni, lui raggiunge la maggiore età. Sì, ma anche senza fare grandi passi, da gusto stare con i figli maschi in casa, certo. Non bisogna mai farlo intuire alle mogli che esiste questa complicità trasversale di genere, perché si inviperiscono e fanno poi dei ricatti terribili ai figli. Però è così, soli con i figli maschi è un espediente molte volte per mantenere viva la fiamma della convivenza matrimoniale. Susanna, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, sono Susanna e telefono da Perugia, ho 50 anni e alle spalle un matrimonio, no alle spalle, e sto vivendo ancora un matrimonio anche davanti. Che dura da 31 anni. No, ti volevo dire che io e mio marito siamo in simbiosi completa, anche se mi sono accorta ultimamente che lui ha la testa da un'altra parte. Quindi questa simbiosi non è però, poi così completa. No, non è, però siamo, non possiamo fare a meno l'uno dell'altro. Beh, lui ogni tanto si vede che qualche rapido momento della giornata di lei ne fa meno. Io non mi senti Nicoletti, io non mi sono lasciata, non mi sono risparmiata niente, neanch'io. Oh, vabbè, allora ci credo. Gli date sotto tutti e due per conto vostro, esatto. È chiaro che poi state assieme. No, ma è una soluzione. Non è che gli diamo sotto, abbiamo avuto le nostre esperienze. Vabbè, si chiama coppia aperta. Non possiamo fare, no, esatto. È una coppia io aperta. La chiamerei così perché non possiamo fare a meno l'uno dell'altro, proprio fisicamente. Certo, anche io non posso fare a meno di Svetlana, senti, che mi fa trovare la mattina tutto bello pulito in casa. No, la nostra casa è libera, aperta, intellettuali, non meno intellettuali, ma non, che non guardano la polvere sul mobile, insomma. Siamo pieni di libri, però i nostri interessi collimano, capisci? Cioè fate lo scambio di coppie, che fate? No, no, per carità, cioè abbiamo una figlia di 30 anni, voglio dire che ancora è, cioè lavora per conto suo, però ritorna in famiglia e con lei, col suo fidanzato. Vabbè, eccetera, vi movimentate la giornata in famiglia, leggete, fate le belle letture, siete intellettuali, non avete problemi e pregiudizi di tipo morale in frequentazioni fisiche e sentimentali con altre persone, quindi con questa formula vivete tranquilli da 30 anni. Bravi. Renata. Ehi, Nicoletti, a me mi fa morire dalle risate, lo sento sempre volentieri quando posso. Sì, vada al dunque. Vada al punto. Vengo al dunque. Allora, io quando dice l'oggetto, proprio mi è venuto, come mi viene spesso, il cerotto adesivo da mettere in bocca. Sì, quello che mettono i criminali quando rapiscono qualcuno. Sì, ecco, bravo, io lo metterei a mio marito, in certi casi, a mia madre, a miei fratelli, a tutti. Ma poi guardi, lei ride, ma lei ha detto la prima cosa sensata da quando faccio la trasmissione. È andata a un esempio pratico, perché tutti tendono sempre a scegliere la via filosofica, interpretativa, psicoanalitica, senza averne poi gli strumenti per farlo. L'oggetto, l'oggetto, l'oggetto è il cerotto. Chiudere la bocca, quel gesto meraviglioso che c'è in una scena. Allora, lei deve sapere che io sono sposata da 45 anni, sì. E mio marito sa che io quando mi alzo per un po' devo stare in silenzio, devo stare. Allora, i problemi. Tutte le mogli non vogliono noie la mattina quando si alza. Vabbè, ma niente, uno le fa la colazione in pace, così legge un libro, legge il giornale. No, lui i problemi più antipatici della nostra vita li porta la mattina. Ma pratici, ovviamente, la mattina. Senti che no, basta, c'è rotto. E quando lui le pone invece i suoi problemi pratici la sera, lei ce n'ha altri per la testa. Ma io quando posso l'ascolto quando posso, ma in effetti poi la vita della donna è molto complicata. Sì, no, invece quella dell'uomo è una grande passeggiata, è sempre in discesa e sempre tranquilla. Comunque grazie Renata, mi fa piacere. Ci facciamo in tempo a chiamare Lorenzo. Lorenzo, buongiorno. Chiudiamo con lei, chiudiamo in bellezza. Allora, io posso dire che da quando mia moglie è andata via di casa, la mia casa è tornata a splendere. Controcorrente. Avevate abitudini igieniche trascurate sua moglie? Sì, diciamo che ho cominciato a non perdere più le coppie di calzini, ho cominciato a trovare la mutanda in giro che non trovavo negli anni prima. Quindi io vorrei aprire una scuola da un uomo che insegna anche alle donne come si tiene una casa. Va bene, allora uno dei motivi probabilmente per vivere assieme è non nascondere i calzini e le mutande. Mi sembra questa una massima di vita da seguire. Ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.